Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Un professore su quattro l'anno scorso era seduto su una cattedra in una scuola diversa da quella di quest'anno. Insomma, il nomadismo degli insegnanti è davvero una piaga della nostra scuola, visto che significa per i ragazzi imparare un nuovo metodo, conoscere una persona nuova. Insomma, nell'insegnamento la continuità sarebbe davvero fondamentale. E a chiedere il trasferimento non sono gli insegnanti, che pure in alcuni casi vogliono una scuola più vicina a casa, giustamente, una scuola migliore, altrettanto giustamente. La maggior parte delle deportazioni, potremmo definirle, avviene perché i meccanismi scolastici che vi abbiamo spesso raccontato in questa trasmissione sono davvero perversi. I precari vanno dove li porta non il cuore, ma la graduatoria. Quelli di ruolo per fare un po' di carriera. Sono dati della Fondazione Agnelli, che ha studiato la mobilità degli insegnanti con dati aggiornatissimi sull'anno scolastico appena iniziato. Tanto che la stessa Fondazione propone di superare le graduatorie rigidamente per anzianità e di creare un albo dando la possibilità alle scuole di scegliersi gli insegnanti e viceversa. Altro aspetto interessante è questo, di cui si è parlato davvero molto negli ultimi periodi. È vero che molto del turnover è dovuto ad insegnanti del sud che vanno al nord e poi dopo un anno circa, chiedono di tornare a casa, come sostiene la Lega? Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli. Assolutamente no, i dati smentiscono. Diciamo, su 120.000 domande di trasferimento effettuate dagli insegnanti di ruolo, quelli non di ruolo vengono, comunque i meccanismi di trasferimento sono coercitivi in ogni caso, sostanzialmente 70.000 circa sono state accettate, quindi abbiamo avuto quest'anno il trasferimento degli insegnanti. Di questi, effettivamente trasferiti da tutte le regioni del nord a tutte le regioni del sud sono 691, quindi come può vedere parliamo di una percentuale assolutamente irrisoria, neanche l'1%. 691 su 70.000 trasferimenti effettuati. Ecco, quindi viene sfatata la leggenda metropolitana che gli insegnanti del sud si trasferiscano al nord e poi tornino subito a casa, sostanzialmente creando un eccessivo turnover al nord. Però restano alti i numeri degli insegnanti del sud che invece insegnano al nord. Restano alti, anche se forse meno di quello che uno potrebbe attendersi, nel senso che se guardiamo a tutta la popolazione degli insegnanti del nord, quelli nati al sud, quindi tutti quelli che operano al nord, quelli nati al sud attualmente sono il 20%, quindi non una cifra colossale. È in crescita, un po' meno di un insegnante su due iscritto nelle liste dei supplenti oggi è un insegnante del sud che vuole andare a insegnare al nord. La verità è, insomma, quello che il nostro studio cerca di analizzare è che questo movimento, che esiste, forse meno di quello che uno immagina, ma esiste, è legato sostanzialmente agli andamenti del mercato del lavoro, per ragioni demografiche. E della popolazione scolastica, certo. Esattamente, per ragioni demografiche la popolazione scolastica sta crescendo al nord e sta rapidamente diminuendo al sud, quindi si creano posti di lavoro al nord e se ne perdono al sud, quindi gli insegnanti del sud che non trovano lavoro al sud, tendono a spostarsi verso il nord, come voglio dire, se pensa negli anni 60 allo stesso meccanismo per le fabbriche, cioè ovviamente chi cerca lavoro va laddove il lavoro c'è. Alla faccia degli insegnanti meridionali, i fratei Grimm, Andersen in Bergamask. E ho letto i titoli davvero più semplici perché il bergamasco non lo mastico. Lo conoscete il dibattito di quest'anno, l'intenzione della Lega di far insegnare dialetti nelle scuole? Bene, c'è un signore di Cenate nel bergamasco che ha scritto già dei libri, delle favole, ma anche veri e propri testi di studio per le primarie, dove già l'anno scorso ha tenuto dei corsi di lingua bergamasca. E quest'anno si replica, come ci racconta Giancarlo Giavazzi al microfono di Raffaella Calandra. L'attenzione per le scuole nasce dal fatto che condivido molto questa iniziativa che è portata avanti in quest'estate dalla Lega per introdurre obbligatoriamente anche nelle scuole la lingua locale, perché ce lo chiede l'Europa con la Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie di non perdere il patrimonio del territorio storico e culturale. Nel 2008 si è più che altro strutturato come laboratorio, quest'anno ci sarà più tempo e la mia intenzione è usare i nuovi libricini che ho fatto della nostra lingua. L'idea era quella di far vedere come il bergamasco è una lingua con delle sue strutture. C'è stata una parte proprio un pochettino storica di introduzione di questo fatto che il latino si è evoluto e si è modificato e ha dato queste variazioni. Lei ha proposto alla scuola e è stata subito accolto dalla scuola, i genitori tutti d'accordo? C'è stato qualcuno che ha sollevato delle perplessità con i bambini? Come è andata la reazione dei genitori? Non lo so. Durante il corso tutti erano molto attenti, per esempio anche c'erano dei bambini indiani, marocchini, eccetera, però i quali naturalmente, trovandosi con un altro codice, ricordiamo che tra l'altro spesso questi bambini, cenate eccetera, sono posti in cui i genitori vanno a lavorare nei campi dove sentono il bergamasco. Io reazioni negative non le ho seguite. Nella serie c'è sempre qualcuno più a sud di te. Ha fatto molto discutere qualche giorno fa la decisione del dirigente scolastico della materna Grisanti Respicio di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Cosa ha fatto questo preside? Ha costituito due classi, una con un po' di bimbi italiani e un po' stranieri, l'altra composta solo da stranieri, prevalentemente indiani. Naturalmente molti hanno gridato allo scandalo. Ma siccome sulla scuola tutti sono buoni a chiacchierare e a parlare di principi, poi però sono gli insegnanti, i dirigenti, è a loro che tocca agire, fare i conti con la realtà concreta e molto spesso davvero senza rete, abbiamo voluto approfondire la cosa proprio con lui, il dirigente dello scandalo, Roberto Ferrari. Aprendo le iscrizioni di gennaio, noi ci siamo trovati con un elenco di circa 65-70 bambini, metà italiani e metà stranieri. Con il successo dei 30 bambini italiani, metà sono andati subito alla scuola dell'infanzia privata, l'altra metà, 14, hanno fatto una doppia iscrizione, anche se non si poteva, e mi hanno detto: dirigente, se lei ci assicura di mettere i bambini italiani in un'unica sezione, pur con bambini stranieri, noi lasciamo qui i nostri figli. Diversamente li portiamo tutti alla scuola privata. Con quali motivazioni con le quali mamme italiane chiedevano trattamento? Cioè, qual era la loro paura? Sì, la loro paura era questa, che non erano disponibili a mettere bambini in sezioni con la maggioranza, la stragrande maggioranza di bambini stranieri. Che intendiamo per bambini stranieri? Sono bambini che sono nati lì, che parlano italiano? Allora, allora, di tutti i bambini stranieri, buona parte dei quali nati in Italia, solo due conoscono qualche parola di italiano. Quindi è un bel problema, perché insomma, avere in classe tutti questi bambini che non parlano italiano vuol dire avere bisogno di personale ulteriore e aver bisogno di soldi per pagare questo personale ulteriore e una didattica mirata. Però, signora, voi siete in grado di offrire tutto ciò? Signora, noi le risorse che abbiamo sono le normali risorse che ci dà l'amministrazione scolastica statale, per cui due insegnanti per sezione. Dopodiché abbiamo come risorse aggiuntive, noi proprio in queste realtà scolastiche a maggioranza di stranieri, per facilitare la comunicazione tra bambini italiani e bambini stranieri e anche tra bambini stranieri tra di loro, perché tenga presente che si è scritto che sono bambini indiani, non è affatto vero, i bambini di cui si sta trattando sono in maggioranza indiani, ma ci sono pakistani, marocchini e senegalesi, per cui ci sono diverse nazionalità. Non sono in grado di comunicare fra loro, ma insomma, infatti, parlano lingue diverse. Esatto, parlano lingue diverse. Allora, che cosa abbiamo fatto? Con l'aiuto finanziario del Comune e in parte del CONI abbiamo potenziato la psicomotricità e le attività a carattere musicale, cioè tutti i linguaggi alternativi. Quindi potenziamento, la formula è potenziamento delle attività musicali e di psicomotricità. Dei linguaggi alternativi. Certo, del corpo, comunque alternativi, attraverso quelli si impara l'italiano. Certo. Però è sempre solo appannaggio delle due maestre di riferimento? Le due maestre di riferimento vengono integrate con queste ore fatte da insegnanti specialisti, cioè l'insegnante di educazione psicomotoria e l'insegnante di educazione musicale vengono retribuiti con fondi del Comune e con fondi del CONI. Però capisca che le ore non sono tantissime, ma dopo poi queste ore sui linguaggi alternativi vengono potenziate dalle stesse insegnanti. Che dicono queste insegnanti? Perché insomma non deve essere facile per loro senza una capacità specifica, senza una formazione specifica a affrontare una situazione di questo genere. Ma guardi, le posso dire che a livello di bambini di scuola dell'infanzia gli insegnanti ci saltano fuori abbastanza bene. I problemi si complicano quando i ragazzini arrivano alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Qui veramente, nonostante i miei insegnanti siano ormai attrezzati, occorrerebbe potenziare tutta la glottodidattica, la preparazione in glottodidattica dell'insegnamento dell'italiano come lingua 2, ciò che io sto facendo con corsi di formazione, perché non si può insegnare l'italiano a un bambino straniero come lo si insegna a un bambino italiano, e questo è il punto debole della scuola italiana. Insomma, si fa presto a dire no alle classi ghetto, una parola orribile, orribile per tutti sicuramente, però insomma non si possono lasciare dirigenti scolastici come lei e gli insegnanti a gestire questa cosa da soli senza soldi. Però guardi, le dico, per noi che abbiamo questa, la percentuale attuale del mio istituto, 43% di stranieri, la parola classi ghetto ci offende, sinceramente. Se volete riascoltare questa puntata di Obbligo di Frequenza potete andare sul sito radio24.it. Ci risentiamo sabato prossimo alle 12:45.